音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。用年轻的心演绎古典，古典中的流行Pops 音乐。 Alas, my love, you do, 北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 And I have loved you, oh, so long, my love, my lady green sleeves。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏威尔第歌剧《茶花女》的全剧录音，由安吉雷斯、莫纳蒂等演唱，塞拉芬指挥罗马歌剧院演出。

che vi turba sto meglio a inconta guisa ucciderete averve d'uopo cura dell'esser vostro e non potrei o se mia foste custode veglierei per vostri soavidi e dite a posti al culo perché nessuno al mondo ama nessuno tranne solo io ma io vero sì grande amor dimenticato mio vivete con voi un cor sì forse e a che lo richiedete ma se ciò fosse non potreste allora celiar dite davvero io non vi inganno da molto è che mi amate ah sì da un anno un dì felice e tarea mi varerà se innante e da quel dì Croce delizia, delizia al cor. Ma se ciò verre, concedemi, sola mi sta, io offro, amo, così meno il tuo amore. Io sono franca, scelua, ad accercare amore misterioso che diavol fate? Si folleggiava! Basta ben, restate! Amor, dunque, non più, vi garba il fatto? Io m'obbedisco, parto! Ah, aggiungeste! Prendete questo fiore! Perché? Per riportarlo! Quando? Quando sarà passito? O ciel, domani! Ebben, domani! Io son felice! Domani vivi ancora! Oh, quanto, quanto amo, quanto amo! Io son felice! Addio! Yeah. e gioia, o che sono il vivere mio, bei sentieri e piacer. Ma se il giorno o il giorno muoia, sempre lieta ne ritrovi. Io vivo quasi in cielo. Ah sì, io vivo quasi in cielo. Io vivo quasi in cielo. Annina, donde vieni? Fitel commise. Fu la mia signora. Perché? Era le mar cavalli cocchi e quanto ancor possiede. Che mai sento? Lo spendio grande a viver qui solinghi. E tacevi? Di cui silenzio imposto. Imposto? Orma bisogna. Vite Luigi. Orvanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora. Il tutto valgo a riparare ancora. Alfredo per Parigi or partiva e tornerà pria che tramonti il giorno. Dir bel m'impose è strano. Per voi sta ben. In breve giungerà un uom d'affari, entri all'istante. Ah, sto prima flore il mio ritiro, e mi invito a danzare per questa sera. Il man m'aspetterà. È qui un signore. Sarà lui, mi attendo. Damigella Valerie. So io. Alfredo il padre, me vedete? Voi? Sì, dell'incauto e arruinatore, ammaliato da voi. Ma so io, signore, e di mia casa io vi lascio, sentite. Voi modi pure tratto in error voi foste de suoi beni e gli dono vuol farvi. Non lo so finora rifiutere pur tanto lusso. A tutti è mistero quest'atto, a voi non si. Scoprio d'ogni vostro avere, or volete spogliarvi. Hai passato, perché, perché m'accusa? Io non esiste, ora freno, ed io siccome una Angele consolatore, violetta. fate pensateci, ne siete in tempo ancora, e io che spira giovine, e Dio che spira giovine, e Dio che spira tra i detti angeli tuoi. chiamarlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirò me. Allor. Qual figlia, qual figlia m'abbracciare, forte così sarò, tra breve il vecchio reso, afflito oltre ogni dire, a sua concordante la volerete. E pensate, sapendo il non vorreste al pensier mio. Generosa è per voi che far possio, e far possio, o conosca il sangue. silenzio va l'istante. Ed or si scriva lui. Scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerà invadarti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani, tu la calma, ai miei vestiti mi gemerà, i visi più non ne vorrà, sarem felici, perché tu m'ami, Alfredo.